2. Brodo per gli ammalati. Un professore di vaglia, che curava una signora di mia conoscenza, gravemente malata, le aveva ordinato un brodo fatto nella seguente maniera. Tagliate magro di vitella o di manzo in bracioline sottili e mettetele distese una sopra l'altra in largo tegame. Salatele alquanto e versate sulle medesime tanta acqua ghiaccia che vi stiano sommerse. Coprite il tegame con un piatto che lo chiuda e sul quale sia mantenuta sempre dell'acqua e fate bollire la carne per 6 ore continue, ma in modo che il bollore appena apparisca. Per ultimo fate bollire forte per 10 minuti e passate il brodo da un pannolino. Con 2 chilogrammi di carne si otteneva così 2/3 o 3/4 di litro di un brodo di un bel colore e di molta sostanza.